Allora, io voglio dire che innanzitutto il processo di Sri Lanka era molto particolare, non solo perché sono arrivati tantissimi soldi, tantissimi aiuti, però era molto difficile rapportarsi allo Sri Lanka, perché era un paese comunque abbastanza povero, era un paese disorganizzato, era un paese con cui era molto difficile rapportarsi e quindi entrare nei processi burocratici dell'ufficio del catasto di un paesello. Per cui il primo problema è stato proprio quello di rapportarsi con gli enti locali. Il secondo problema era dovuto dal fatto che le popolazioni locali non erano abituate a vivere in delle case particolarmente belle, per cui nel momento in cui gli veniva proposta una casa qualsiasi, loro l'accettavano di buon grado, erano felicissimi di ricevere una casa che mai avrebbero avuto nella vita. E questa era la prima reazione. Alla prima reazione, appena vedevano la fotografia, il render della casa futura, ne rimanevano abbagliati. Poi però privatamente facevano queste riunioni in cui si trovavano e da lì in poi nascevano mille dubbi e mille domande che poi venivano riproposte il giorno successivo poi alle organizzazioni internazionali oppure agli enti che si occupavano di avere rapporti con loro. Quindi era sempre il passo successivo, il primo passo era sempre quello di accettare quello che veniva proposto, il secondo passo era quello di riattaccarsi alle proprie tradizioni. E questo attaccamento alle proprie tradizioni era anche una questione storica, proprio perché essendoci stata la guerra civile per 30 anni le persone si sentivano molto forti delle loro tradizioni e in più essendo un'isola le persone avevano mantenuto le loro tradizioni molto più forti rispetto che in altri paesi, cioè i musulmani erano molto molto molto chiusi e tutti avevano una forma primordiale di ideologia religiosa. Quindi questo era molto forte. Però secondo me è un caso particolare.